falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi parliamo di una donna bellissima che si è impressa nella memoria di tutti e che ha fatto la storia del cinema. Se c'è ancora qualcuno che non sa chi sia Vivien Leigh, ecco un piccolo aiuto. La voce che ascoltate è quella della doppiatrice di Vivien Leigh, Lidia Simoneschi. Red, se te ne vai, chi sarà di me? Che farò? Francamente me ne infischio. Casa mia. E troverò un modo per riconquistarlo. Dopotutto, domani è un altro giorno. Eh sì, domani è un altro giorno, è una frase storica. Io ho addirittura chiamato un album proprio così, domani è un altro giorno. È la frase che chiude uno dei più grandi colossal, allora in Technicolor si diceva, insomma un colossal su un amore tormentato durante gli anni della guerra di successione americana. Stiamo parlando di Via col vento, proprio quella storica frase conclusiva pronunciata dalla protagonista, da Rossella O'Hara, tra le lacrime, riassume un po' la complessità del suo personaggio. Ve la voglio fare risentire con la vera voce della nostra protagonista, di Vivien Leigh. I'll think of some way to get him back. After all, tomorrow is another day. Pensate, la ricerca per il volto di Rossella O'Hara è durata oltre 2 anni. Tanta fu l'ansia e la pretesa del produttore David Selznick, che compra i diritti di Via col vento, il romanzo di Margaret Mitchell, per $50,000, che era una cifra record, altissima per gli anni 30. Selznick e sua moglie Irene capiscono la enorme potenzialità del libro e quindi del film, e non vogliono sbagliare la scelta del cast. Sanno che la protagonista è fondamentale, mettono in moto un'enorme campagna pubblicitaria per tutti gli Stati Uniti, attivano moltissimi collaboratori, come racconta il critico americano David Thompson. He literally sent people out. Lui spedì letteralmente un sacco di gente, particolarmente negli stati del sud degli Stati Uniti, ad organizzare audizioni pubbliche, dove si presentavano centinaia di aspiranti Rossella O'Hara, spesso in costume d'epoca, a fare la loro piccola presentazione. Ebbene, proseguendo con questi provini, ci si accorse ben presto che così non si sarebbe mai trovata l'interprete giusta. Allora iniziarono seriamente ad esaminare attrici professioniste. David Selznick inizia a capire che trovare la Rossella giusta per il suo colossal è molto più difficile del previsto. Intanto la psicosi che si è generata gli fa piovere addosso migliaia di fotografie di aspiranti Rossella. E però, insomma, nessuno sa cosa pensa veramente, ma di certo si sa cosa scrive, perché lui scrive una frase molto significativa. Se non troverò la ragazza che ho in mente, sarà un mio grande fallimento. Parte addirittura un sondaggio che coinvolge 2 milioni di persone. Il pubblico decide che Clark Gable sarebbe dovuto essere Rhett Butler. Ogni giorno intanto però arrivano alla casa di produzione foto di ragazze, tutte che si mettono abiti da sera tipici del sud degli Stati Uniti, oppure ragazze che nel dubbio si fanno ritrarre senza veli per cercare così di accattivarsi la simpatia di chi deve scegliere. Intanto per i provini cominciano a proporsi anche delle attrici già molto famose, tipo Joan Crawford e Carol Lombard, che era l'amante di Clark Gable, e tra di loro anche una incredibile e bellissima Katharine Hepburn. David, sono io la tua Rossella O'Hara. Questo è quello che Katharine dirà al produttore, e lui risponderà sarcastico così. Non mi immagino Rhett correrti dietro per 10 anni. Capito. Anche Bette Davis si propone al provino, non viene selezionata nelle sue memorie, scriverà: ero perfetta per interpretare Rossella. E invece Rossella sarà solo lei, la nostra protagonista Vivian Leigh, bellissima, magnetica, con un'eleganza innata dietro la quale si nascondono i tratti pericolosi della nevrosi e dell'ossessione per la perfezione. One love affair for two. And so with time on my hands and you in my arms and love in my heart all for you. Il falco e il gabbiano. Siamo in America alla metà degli anni 30 e si sta vivendo questa febbrile ricerca del volto giusto per interpretare Rossella O'Hara in Via col vento. Nel 1938 Vivian Leigh arriva dall'Inghilterra, fa un lungo viaggio in nave per andare negli Stati Uniti e per stare vicina a Laurence Olivier, perché nel frattempo è nata un'amicizia molto affettuosa. Lui la accoglie a braccia aperte e lei dovrebbe rimanere qualche giorno per rientrare a casa. In realtà si fermerà per un anno. Appena sbarcata prende una stanza al Beverly Hills Hotel, non lontano dalla casa di Laurence Olivier, e trascorre le giornate a bere tè freddo a bordo piscina, e mentre gli agenti consigliano alla coppia di stare molto attenta a paparazzi, a gossip, perché entrambi sono sposati e gli americani sono molto puritani, non amano le infedeltà e soprattutto quelle un po' troppo manifeste. So fashionable. Finalmente un giorno Olivier presenta Vivienne a Miron Selznick, che è uno scommettitore incallito e tra l'altro è il fratello di David, il talent scout, ricordate, quello dal grande fiuto e uno dei produttori di Via col vento. E le cronache raccontano che Miron vede in lei la futura Rossella, tanto che dopo una cena al famoso ristorante Romanoff la porta sul set dove sta lavorando il fratello David. E il 10 dicembre 1938 è buio, sono le 11 di sera e fa molto freddo. Sul set entrano Laurence Olivier, Miron e Vivian Leigh. Sul set avvengono le primissime riprese del film, cioè l'incendio della città di Atlanta. Lei indossa una pelliccia di visone, che è un regalo di Natale di Olivier, sotto a uno stretto vestito di seta beige che le cinge la vita e mette in evidenza il suo vitino, e poi ha un cappellino nero. Jack, si gira. Stop. Ehi, David, genio, eccoci qui. Voglio presentarti la tua Rossella O'Hara. Buonasera, signor Selznick. Buonasera. Ehi, fratello, ho colpito nel segno, eh? Per favore, Vivian, si tolga il cappello e vada a provare alcune scene. Se a lei non dispiace, vorrei vedere dei dialoghi tra Rossella e Ashley. Certamente, so tutto il libro a memoria. Non mi sarà difficile. E i provini vanno avanti per oltre 2 ore. Alla fine Vivian Leigh viene messa nella rosa finale con altre 3 attrici. David in seguito dichiarerà così: mi bastò un solo sguardo per capirlo. Lei era perfetta. Però la trafila è ancora lunga. Decine di provini alle 4 candidate. E in solo 5 giorni Vivian ricorderà il busto ancora caldo del corpo della candidata precedente. Si tratta della scena in cui Mami stringe i lacci al busto di Rossella prima di un picnic alle 12 querce. Just hold on and suck in. Mommy, here's the scarlet pickle. You can take it all back to the kitchen. I won't need a bite. Oh, yes, and you is. You's gonna eat every mouthful of this. E arriva il giorno della finalissima, l'ultimo provino per decidere chi sarà Rossella Ora. È il 21 dicembre 1938 e Vivienne lo fa alla perfezione. È eccitata e anche preoccupata, perché se la scegliessero dovrebbe fermarsi in America per molto tempo, non potrebbe vedere per mesi la sua adorata figlia Susan, ma mi sembra che si potrebbe consolare come minimo con Laurence Olivier. E il giorno di Natale il regista Cukor invita Vivienne e Laurence Olivier a casa sua per una festa. Alla fine della serata si rivolge a lei ed esclama la frase chiave: credo che dovremo sopportarti. Eh sì, la decisione è stata finalmente presa. Questo è il colpo d'ala di Vivien Leigh. La ricerca di Rossella Ora è finita così. Dopo aver speso $92,000, aver visionato 1400 candidate con 90 provini approfonditi a 90 donne, il critico cinematografico David Thompson commenta così il finale di questa storia. She was right for Scarlett. Lei era perfetta per Rossella, perché era bellissima, perché era magica, perché era pazza, perché si sottoponeva tutti i giorni al peso enorme delle scene, che girava indossando quasi ogni giorno costumi pesanti sotto alle luci Technicolor. Il che era un po' come trovarsi nella Valle della Morte in estate. Anche la scrittrice Margaret Mitchell, l'autrice di Via col Vento, viene a sapere chi sarà la sua Rossella. Quando vede una sua foto dice che è una donna molto bella e affascinante, insomma dà la sua approvazione alla scelta, considerando molto saggia la decisione di scegliere un'attrice quasi sconosciuta in America. Vivien, come racconta Michelangelo Capua in una biografia dell'attrice edita da Lindau, è entusiasta. Il 14 gennaio 1939 invia alla scrittrice un commovente telegramma. Sapere che lei mi è vicina in quello che è il più importante e difficile compito della mia vita mi fa un infinito piacere. Le giuro con tutto il cuore che cercherò di rendere Rossella O'Hara viva, così come lei l'ha descritta nel suo magnifico libro. Falco e il Gabbiano. Stiamo parlando di una donna bellissima, magnetica, nata tra l'altro come molti inglesi in quel periodo in India nel 1913, ai tempi delle colonie. Ha avuto una grande carriera sia al cinema che in teatro. Stiamo parlando di Vivien Leigh, nome d'arte di Vivien Mary Hartley. Lei era conosciuta, è conosciuta tuttora da tutto il mondo per essere stata la Rossella O'Hara di Via col Vento, accanto a Clark Gable, e ha un grandissimo cast. Vivien è sposata e ha una figlia in Inghilterra, però ama immensamente Laurence Olivier. Adesso che è a New York per uno spettacolo, soffre così tanto la mancanza del suo uomo di riferimento che piange spesso anche sul set. Insomma, dopo 5 mesi di riprese la tensione è alle stelle e il regista Fleming, che aveva già sostituito il primo regista, entra anche lui in esaurimento e arriva un terzo regista che si chiama Sam Wood. L'ultimo giorno di riprese è il 27 giugno 1939. Lei, dopo aver concluso la sua scena, va a fare un provino per un altro film, Rebecca la prima moglie, film bellissimo che sarebbe stato diretto da Alfred Hitchcock. Avrebbe avuto come protagonista Olivier, ma il provino va male perché il personaggio di Rossella e la sua personalità si intrecciano con quella di Vivien, e da questo momento la nostra protagonista, come spesso accade nei film di grande successo, inizia a avere due diverse identità in armonia, in conflitto. Comincia insomma il suo cammino verso dei territori piuttosto oscuri, quelli della inquietudine e della follia. Every question is a means to draw long answers, play the fool, it doesn't hurt. Splitting headache, come and get up early in the morning. Where are all the funny faces that are always bottled by goodbye? Can't you see the lady is lingering? Stanley è un'attrice incredibile, conosciuta per le sue interpretazioni numerose sia al cinema che al teatro, però rimane un po' intrappolata nel nostro immaginario e anche per la sua vita, come Rossella O'Hara. E il critico cinematografico Paolo Mereghetti commenta così la vicenda. Famosa come Rossella O'Hara non ce n'è, probabilmente quell'interpretazione, come dire, l'ha segnata fino in fondo, cioè ha segnato l'immaginario collettivo, e questa cosa forse qualcosa vuol dire, perché sennò non ci sarebbe stato, non sarebbe diventata così celebre. Certo che in Via col vento Vivien Leigh è la quintessenza della star hollywoodiana, è perfetta, il suo volto diventa quello di O'Hara, la sua recitazione, il suo modo di comportarsi, la scena famosa in cui dovrebbe essere in lutto però agita il fondo schiena a tempo durante il famoso ballo, cose di questo genere, che poi sono anche idee di regia naturalmente, ma che l'hanno fatta diventare qualcuna di straordinario, ecco. Sicuramente è un'attrice che ha segnato in positivo la storia del cinema. Paolo Mereghetti cita una scena tra le più geniali del film Via col vento, perché c'è Rossella O'Hara che è vedova da poco, vestita in abito nero a lutto, che osserva da una specie di balconcino gli altri che stanno ballando, e la cinepresa si muove e fa vedere agli spettatori che in realtà il suo fondoschiena, i suoi piedi si muovono a ritmo, perché lei vuole ballare ma non può farlo per non fare nulla di sconveniente nel suo ruolo di fresca vedova. Così ha una originale asta di beneficenza. Rhett Butler, cioè Clark Gable, offre una cospicua somma di denaro per portarla finalmente sulla pista. $25 per Miss Fanny Helsing. Solo $25 per la vostra dama? $150 in oro. Per quale dama, capitano? Per Mrs. Rossella Hamilton. Per chi? Mrs. Rossella Hamilton. Mrs. Hamilton è in lutto, ma sono certo che qualsiasi dama di Atlanta sarà fiera di... Ho detto Mrs. Rossella Hamilton. Ma non accetterà di certo. Oh sì, accetto. Abbiamo scandalizzato la Confederazione. È come forzare il blocco, vero? Beh, peggio, ma spero di trarne un buon profitto. Oh, non mi interessa quello che volete voi o quello che pensano gli altri. Voglio ballare. Stasera ballerei anche col mio peggior nemico. È diciamo la più famosa delle vedove allegre, no? Comunque, il 12 dicembre 1939, in vista dell'anteprima mondiale di Via col vento, Vivien e Larry, cioè Laurence Olivier, raggiungono Clark Gable e la sua amante Carol Lombard ad Atlanta. 300.000 persone si spintonano lungo le 7 miglia di strada che portano dall'aeroporto all'albergo dove è alloggiato l'intero cast di Via col vento. Quella sera stessa viene organizzato un ballo in costume, gli attori fanno la loro entrata indossando i costumi originali del film. Ci sono 6.000 persone che chiedono foto e autografi. È un successo insperato ancora prima della proiezione, che avviene il 15 dicembre, di un film che durerà 4 ore. Ecco cosa scriverà il critico del New York Times. Vivien è così belle che non ha bisogno di nessun talento, ed è così brava che non ha bisogno di essere belle. Nessuna attrice è mai stata più adatta per una parte. Beh, direi un complimento che ogni donna vorrebbe poter ricevere. Per questa sua indimenticabile interpretazione del film, lei riceve l'Oscar come miglior attrice protagonista dalle mani di Spencer Tracy. Poi ne avrà un secondo nel 1952. È la sera del 29 febbraio 1940 e siamo ovviamente a Los Angeles. Signore e signori, vi prego di perdonare l'inadeguatezza delle mie parole nel ringraziarvi della vostra gentilezza. Se dovessi elencare tutti coloro che mi hanno dimostrato grande generosità sul set di Via col vento, dovrei tenere un'orazione lunga almeno quanto il film. Così, se possibile, mi piacerebbe ringraziare in questa occasione quella persona energica, coraggiosa e gentile su cui si fonda tutto Via col vento. Mr. David Selznick. È un periodo molto intenso. Intanto la situazione si sblocca perché il marito le concede il divorzio, e nel frattempo anche la moglie di Laurence Olivier concede il divorzio a lui. Rimangono amici lei con l'ex marito, però intanto Larry Olivier Vivian se lo sposa, il principe del teatro inglese diventa il suo marito, anche se la loro storia d'amore ormai non era più un segreto per nessuno. Continuano a lavorare strenuamente, tornano in Inghilterra, ma lei si ammala gravemente, le viene diagnosticata una tubercolosi al polmone sinistro, viene dimessa dopo settimane di ricovero, ma con una fortissima depressione che poi si trasforma in attacchi maniacali e sintomi di un grave disturbo bipolare. Lentamente tutto questo le rovina la vita personale e professionale, come racconta anche un suo amico Sheridan Morley. Nowadays, al giorno d'oggi lei avrebbe i medicinali, i trattamenti in clinica, sarebbe tornata alla ribalta come Elizabeth Taylor, starebbe lavorando a 80 anni, ma al tempo non c'erano medicinali, non c'erano cliniche, non c'erano agenti di PR, non c'era nient'altro a dividere Vivian dal mondo esterno, che le appariva freddo e ostile, che a volte a causa del suo stato mentale non poteva sopportare. Could not cope with. E però lei intanto continua a lavorare sodo, recita in diverse pellicole come Cesare e Cleopatra, un tram chiamato Desiderio in compagnia di un giovane Marlon Brando. Lei è Blanche Dubois, una donna tormentata, schiava dell'alcol e del sesso, che nasconde una forte inquietudine dietro una apparenza elegante e sofisticata. E diciamo che un filo rosso lega l'attrice alla sua protagonista, tanto che qualcuno racconta che durante i suoi ultimi giorni Vivian diceva ai medici di chiamarsi Blanche. Tu sei Cesar Stanley? Sono Blanche. La sorella di Stella? Sì. Oh, ciao. Dov'è la mia moglietta? In bagno. Ah. Da dove vieni, Blanche? Io vivo a Oriol. Oriol? Ma non lo conosco, già non è nella mia zona. Come si consuma il liquore quando fa caldo? Vuoi un sorso? No, io lo tocco di rado. Beh, c'è chi l'alcol lo tocca di rado, ma si fa toccare da lui. Questa sua intensa interpretazione nei panni di Blanche le procura il suo secondo premio Oscar, però lei non riesce più a scindere la sua vita reale e quella del personaggio che interpreta, cosa che la induce a scendere nel baratro della follia e che porterà peraltro il suo secondo marito a chiedere il divorzio. Esaurimenti, ricoveri, tradimenti, insomma gli ultimi anni di vita sono molto duri per lei, che ha la salute cagionevole e soprattutto un equilibrio psichico ormai definitivamente instabile. Per sua fortuna c'è ancora un uomo che è disposto a starle accanto, è l'attore Jack Merivale, che pur essendo consapevole della difficile situazione clinica dell'attrice decide di prendersene cura fino alla fine, fino alla sera del 7 luglio 1967, giorno in cui, dopo essere stata colpita da un ennesimo grave attacco di tubercolosi, subisce un collasso letale nella sua casa londinese di Eaton Square. E io vi lascio con le parole di Laurence Olivier, l'uomo che per 20 anni è stato accanto a Vivian e che più di ogni altro l'ha amata e conosciuta. Vivere accanto a Vivian è stato come essere in un ascensore in salita verso l'ultimo piano che all'improvviso precipita verso terra a velocità folle. E questa era la storia di una grande donna che ha interpretato così bene un personaggio che è entrato nella storia del cinema da rimanerne intrappolata fino, insomma, a una discesa dalle alte vette in cui i suoi colpi d'ala l'avevano fatta salire. Se volete che noi raccontiamo delle storie che voi ci indicherete, fatelo, scriveteci sui vari siti, profili Facebook, Twitter, al sito del Falco il Gabbiano, insomma, se volete ci trovate. A domani. Scorderò mai Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso.